fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E siamo nuovamente in compagnia, siamo in diretta in questa serata Dinner and Dance, dove siamo nuovamente in compagnia in questo momento. Mi sentite? No, no, fuori no, tu senti? Beh, guarda, tu devi stare serena e tranquilla, non pensare a me, non ti agitare. Sei in uno studio radio, so che può essere molto, molto eccitante, molto emozionante, una nuova esperienza. Siamo nel nostro Risto Radio Convento, nel nostro studio radiofonico, e siamo in questo sabato di Nandese in compagnia di una ragazza che si chiama? Verdiana. Stai davanti al microfono a parlare. Verdiana. Si chiama Verdiana, che arriva da? Bergamo. Verdiana che arriva da Bergamo, ok. Ci dirà lei che cosa festeggia questa sera e ci dirà lei anche, ci racconterà un pochettino qualcosa di lei. Siamo anche in compagnia di tre amiche, le altre sono rimaste fuori a fotografare, a filmare come stanno facendo. E le amiche, come si chiamano? Dai tu i nomi. Elisa, Elisa, e poi? Simona e Giada. Elisa, Simona e Giada sono delle ragazze frizzantissime, sono delle ragazze che ne vedremo delle belle, come ci piace dire al convento in ogni serata. Verdiana, subito una tua opinione, perché sei qui a festeggiare? Cosa festeggi? Allora, sto festeggiando il mio addio annunciato. Mi hanno portato qua le mie amiche. Esatto, non so che fine farò questa sera. Però è iniziata bene. È iniziata molto bene. Ma è iniziata bene perché è iniziata bene? Perché siamo partite da stamattina da Bergamo, mi ho fatto camminare a piedi. Sì. Poi ho mandato tutte le varie indicazioni, varie ed eventuali, per fare delle figure di merda in giro per il mondo. Ok, pip. Pip. Poi siamo arrivate qua. A piedi? No, non a piedi, in macchina, per fortuna, perché sì, da Bergamo è un po' lungo. Sì. No, no, siamo andati in bed and breakfast. Mi hanno regalato questo bellissimo vestitino da infermierina. Sexy. Hai intenzione di curare qualcuno questa sera? Sì. Verdiana, ce l'hai. Rianimo molte cose nella mia vita. Rianimi molte cose, perché poi magari ci dirai anche nella vita cosa rianimi, vero? Perché siamo curiosi. Attenzione, perché ci stanno ascoltando un bel po' di persone. E poi attenzione, perché questo podcast, queste registrazioni, il podcast le potrete scaricare già dalla prossima settimana, perciò assolutamente attenzione, potrà essere usato tutto quello che viene detto contro di voi. Ti sposi. Perfetto. con Mauro, che fa il falegname. Mauro fa il falegname? Sì. Allora c'hai i soldi. 14 anni in più di me. Allora c'hai i soldi. No, è povero. È povero. Lo sposi perché è povero? Lo amo tanto. Dai. Allora, ragazze, voi che la conoscete, è vero che lo ama? È vero, confermiamo. Confermate. Pienamente. Lo conosci da quanti anni avevi quando l'hai conosciuto? 4 anni. 22-23 anni. Ha 3 anni? È 3 anni che l'hai conosciuta, adesso vi sposate. Bene, bene, bene. Cosa fai nella vita? Faccio l'infermiera. Ah, ecco perché questo abbigliamento così. Fai l'infermiera. E ti piace molto? Cioè, sì, aiutare molto. Le persone, una bella professione. Sì, è proprio una bella professione, ok. Pregio e difetto di Verdiana, un pregio e un difetto tuo. Devo dirlo io? Certo. Il pregio, penso il sorriso, perché sorrido sempre. Anche quando sono un po' triste, sorrido sempre. E questo è un bel modo di affrontare la tristezza, esatto. Sì, sono d'accordo, sì. Poi devo dire che sorridi anche con gli occhi, perciò. Hai questi due occhi veramente che ti fanno sorridere, perciò anche questo è un bel modo per affrontare anche i problemi, sì. E perciò difetto, sorriso, difetto. Penso di essere troppo pitimina e troppo precisa. Pitimina e precisa, e lo ritieni un difetto questo? Sì, perché tutti si incavolano sempre. Oh, si incavolano. Sì, perché io mi arrabbio con gli altri quando non lo fanno. Ho capito, ma in che modo manifesti questo? Se vuoi puoi aprire e lì c'è la porta. In che modo manifesti questo? No, tipo al lavoro così, o a casa, anche con l'ordine in casa, tipo queste cose. No, ecco, proprio in queste piccole cose, ho capito. Sì. Pregio difetto anche di tuo marito, che si chiama? Mauro. Mauro, pregio difetto? Pregio che mi è stato vicino in molti momenti difficili, e credo che sia un grandissimo pregio. Enorme. Esatto, ed è il motivo per cui mi sono resa conto che è l'uomo della mia vita. È un difetto che ogni tanto è un po' egoista, allo stesso tempo un po' egoista. Cioè ti è stato vicino però egoista, cioè voglio dire. Sulle sue cose a volte è un po' egoista. Ci può anche stare, è un difetto per modo di dire. Però vabbè. Però vabbè. Siamo nel nostro studio radio, che è posizionato proprio direttamente sulla pista, e perciò vorrei sapere da te se ci racconti in 30 secondi cosa sta succedendo fuori per i nostri ascoltatori, così giusto per. Allora, gente che beve, che mangia, che si diverte, musica, è un posto molto accogliente, devo dire. Un posto molto accogliente. Questo è quello che vedi, infatti si sono sistemati per gli aperitivi, stiamo partendo con la serata. Cosa ti aspetti dalla serata? Che continui così e che vada al meglio possibile, riuscire a divertirmi. E riuscire a divertirmi. Sì. Bello. Semplicità, essere lì. Facciamo dire una cosa dalla tua amica, su quello che ha detto Verdiana, cosa pensi che abbia detto tutto ciò che corrisponde al vero? Corrisponde al vero, confermo il suo pregio, la sua solarità, la spontaneità. È molto istintiva, sprizza gioia da tutti i pori, e il difetto concordo perché sono una collega di lavoro e sul lavoro no. È maniaca dell'ordine, deve essere tutto pulito, tutto sistemato, la cosa deve essere dove l'ha messa lei, se no... Se ti può consolare in questo, ho un figlio che si chiama Nicolas, che è assolutamente la coppia in questo. Lui prima di uscire, a 5 anni, prima di uscire, lui deve sistemare assolutamente tutto ciò che è fuori posto. Devo dire un po' come il padre, forse, perciò in qualche modo ci assomigliamo un pochettino. Benissimo, io direi che possiamo salutare Verdiana, ringraziarla di averci raccontato e si è raccontata qualcosa di lei, della sua vita. Avremmo potuto chiederle anche i suoi sogni, tutto quanto, ma direi lasciamo un pochettino anche un po' di mistero, perché altrimenti se svegliamo tutto di Verdiana, poi che succede? Poi tutti, qualcuno si innamora di te. Brava, che poi tutti si innamorano di te e poi succede quello che non deve succedere. Esatto. Perché tu devi avere una vita felicissima col tuo Mauro. Esatto. Col tuo falegname Mauro. Cosa costruisce Mauro? Mobili. Facciamo pubblicità, è la sua l'azienda? No, lavora per questa azienda che è la Fattorini di Gazzaniga. Fattorini di Gazzaniga, attenzione, avete bisogno dei vostri mobili, rivolgetevi a Fattorini di Gazzaniga. C'è il falegname Mauro più bravo del mondo. E dopo questo annuncio, grazie. Un grazie Verdiana, un grazie a tutte le amiche. Buona ciao, serata. Ciao, buona serata a voi, ciao.